greater than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli l'alba è un miraggio che si allontana sempre più, Kappa e Drago fanno discorsi onirici. Ho fatto un sogno, Drago. Uno dei tuoi soliti sogni psichedelici? Sì, ero con George Harrison a provarmi un paio di scarpe. Con George Harrison? Sì, però non mi interrompere perché ho appena cominciato, lasciami andare avanti. Ho capito, ma George Harrison, sai... Ma George Harrison cosa? Dico, perché proprio George Harrison? Perché è il filtro onirico. Il cosa? Il filtro onirico è una specie di filtro creato dalla mente, no? Cosa stai dicendo di colpo? Sto dicendo, Drago, che se sogni una persona, molte volte in realtà stai pensando a un'altra. Ah. Solo che la tua mente crea una specie di censura e sposta l'oggetto della tua attenzione, tutto qui. Ah. Filtro onirico. In questo caso, quindi, George Harrison chi rappresentava? Rappresentava il mio vero idolo tra i quattro Beatles, capito? John Lennon. Ma che John Lennon? Lui, Paul McCartney, che tra l'altro è morto. È morto. If the conclusion you reach is that I'm dead, then you're wrong, because you're obviously very much alive, because I'm alive and living in Scotland. Vabbè, Kappa, ma tu sei anche strano, eh? Sogni Paul McCartney, ma vedi George Harrison. È il destino di George, arriva sempre dopo. Ah. Non è stato nemmeno il primo dei Beatles a morire. Sì, però è quello che ha sofferto di più, eh? Vabbè, ma vuoi mettere essere uccisi da un fan? Ah, beh, sì. E comunque eravamo io e George, che poi era Paul, che intanto era morto, e ci provavamo delle scarpe in un negozio di Parigi. Ah, Parigi, sì. Il sogno cominciava direttamente dalla Francia. Ah, di solito finiva in Francia, adesso cominciava in Francia. Ma perché sogni sempre la Francia? Non sais pas, non sais rien. Poi che cosa succedeva? Succedeva che il negozio diventava una piscina . E nella piscina poi arrivavano tre caravelle. Come? Sì, e da una delle caravelle mi chiedevano la rotta per le Indie . E io indicavo a destra e George, che poi era Paul. Certo, George è sempre Paul, che intanto era morto. Dai, non distrarti e continua, dai. Vabbè, sei tu che mi interrompi. Dai, continua. Vabbè, allora io indicavo a destra e George, che poi era Paul, che era morto, indicava a sinistra. Allora il tizio della caravella diceva: mi chiamo Colombo e ho qui con me mio figlio attendente Niesini. Siamo alla ricerca di una pista da motocross che dovrebbe essere in India, Belino. Ma era Cristoforo Colombo, con Niesini, che non so chi sia. A me sembrava di più un commercialista con lobby delle Harley Davidson, comunque. E poi? E poi Colombo ripartiva dopo aver messo il regolare parcella e io mi ritrovavo con George, che era Paul, che intanto era morto anche lui, e con John Lennon. Ah, che però era Ringo Starr, no? No, era proprio John. E come lo sai, il filtro onirico? No, è il filtro onirico, sa chi è John e sa chi è Ringo, Drago, non ti preoccupare. Ah. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. E quindi io, John e George, che poi era Paul, che intanto era morto, parlavamo francese con le passanti e chiedevamo l'elemosina vicino al Sacré-Cœur, a Montmartre, cantando Michel, ma belle, Michel, ma bella. La conosci, no? Michel, ma bella. Sì, conosco Michel, ma bella. E poi come continua? Poi arrivava una manifestazione di studenti del 68 che interrompeva tutto. Una marea di 68enni. No, vabbè, Kappa, 68ini, non 68enni. No, ma erano proprio gli studenti di allora, però adesso, capito? Ah, ho capito. Come moccia. Ho capito. Notte prima degli esami, oggi, capito? Ho capito, sì, sì. E quindi? E scendevano in piazza per protestare contro i giovani. Ma come? Proprio loro, cioè, moccia e i giovani, sì. Vecchi, ex giovani. giovani? Coi Beatles. Perché una volta diventato vecchio, i giovani non li sopporti più, Drago. E poi comunque è un sogno, quindi... Sì, però adesso basta, dai, hai già raccontato troppe cose, tutte senza senso. Colombo che cerca una pista da motocross, George che è Paul, che è morto, John che è John, i sessantottini, i sessantottenni, dai. E non è finita, caro mio. Come non è finita? Il capo dei manifestanti saettanti sessantottenni era Ringo Starr. Era Ringo Starr, certo, chi altri? Mancava solo lui. No, ma anche lì c'era il filtro onirico. Ringo Starr era George. Che era Paul che è morto. No, quando George è Ringo, allora è proprio George, chiaro? Sì, però allora tu chi eri davvero? Paul, che era morto. Come, tu eri Paul che era morto? Ah, bien sûr. Ma scusa, Paul non era George, che poi era Ringo? Lascia stare, Drago, è matematica. Ma cosa c'entra la matematica adesso? Ah, les italiano charlatane, alcune matematica, Kappa, ma smettila di sputare, Kappa! Tu vuoi un camembert? Vuoi un camembert? Un camembert? Un camembert? Vuoi un camembert? Camembert. The fromage de la belle France. Vuoi un camembert? Camembert. Attenzione! Questo è un messaggio promozionale. Camembert, fromage érotique. Vuoi un camembert? Camembert, fromage érotique. Camembert. Camembert, vuoi un camembert? Una scelta esclusiva. Camembert. Camembert, vuoi? Cedete a Camembert. Obbedite a Camembert. Credete a Camembert. Sentite Camembert. La fabbrica di polli. Tu vuoi la Camembert? Ehi, Camembert! No, ripeti con me, questo è francese. Tu vuoi la Camembert? Tu vuoi la Camembert? Bravo. Bravo. Allora, qu'est-ce que c'est? La psycho chicken. Ma no, psycho chicken. Questa è una lezione di francese, no? Il francese è una lingua un po' passata di moda. Però guarda che se vai in Africa, e lì serve ancora, eh? È perché i francesi, alla faccia del loro motto Liberté, Fraternité, Égalité, quelli avevano delle belle colonie in Africa, eh? Africa di Toto! Sì, Africa di Toto, bravo Tarek, bravo. Beato te che non capisci niente. E allora, se prima o poi andrai in Marocco, o in Tunisia, o in Algeria, o perfino in Senegal, se parli francese, allora ti capiranno, no? Ok? Allora, vieni qui e ripeti con me. Les calculs. Les calculs? Della grammaire dada. Della grammaire dada. Tutto insieme adesso? Le calcule della grammaire dada. E bravo Tarek. Adesso puoi andartene a Parigi e parlare con tutti. La fabbrica di polli. Sentite questa voce? La voce libera, forte, chiaro, splendente del Radio Rachmaninoff. Siete stanchi da CNN, BBC, ABC, della Lombardia? Bene. Allora, spegnete il video, accendete la radio. Ma c'è tutto Radio Rachmaninoff! Su Radio Rachmaninoff! Attualità economica con bollettino di petrolio! Relax e divertimento con lo zecchino d'oro nero! Tutti i bambini neri che cantano di petrolio! Intrattenimento tipo Raffaella Carrà con Burka che sorpresa! Reality show con il suicidio dei famosi con appelli di stelle di cinema che si fanno saltare in aria di dinamite scocciata intorno di corpo! Radio Rachmaninoff! Da tutto, da troppo. Che cosa succederà adesso? Cosa c'entra la Francia con la fabbrica di polli? Forse è per via del simbolo nazionale francese, e cioè il gallo? E se sì, vedremo presto in scena un gallo francese? Non agitatevi, i cancelli riaprono domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo transalpinico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica di polli. Un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com. This night.